Programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Un cordiale buongiorno da parte di Filippo Glorioso, ben sintonizzato sulle frequenze CRM Happy Radio. Vi ricordo che potete seguirci anche su Facebook se vi piace, insomma mandateci qualche messaggio, come dire anche un saluto, basta anche quello. Poi il nostro numero telefonico operante per le vostre richieste discografiche, qualora voleste farlo, è lo 0921 92 32 92, ripeto 92 32 92, prefissato allo 0921. Sono esattamente in questo momento le 12:03 minuti e 43 secondi, siamo rigorosamente in diretta ogni giovedì come sempre, oggi giovedì 22 siamo qui dietro questi microfoni alla console, come sempre alla parte tecnica il mio amico Raul Bova, che ringrazio, ciao, anzi no, a Sharavi, perché si è tagliato i capelli come il principe del foro calcistico della Serie A del Milan, e consentitemi, essendo milanista non me ne voglia nessuno, la Juve ce l'ha fatta a passare il turno, anche il Milan grazie a Sharavi, a Pato e poi una bellissima rovesciata insomma di Mexes, messo knockout la squadra avversaria giocando addirittura fuori casa. Questa notizia che mi mette di buon umore stamattina per tenervi compagnia. Un buongiorno a tutti coloro i quali stanno recandosi al lavoro in questo momento, chi smonta di turno per gli ospedali, gli ammalati, i carcerati e le persone di buona volontà che in questo momento stanno prestando la propria opera per farci stare più tranquilli, più sereni, tipo 118, tipo carabinieri, insomma le forze dell'ordine eccetera. Quindi un grazie, grazie a tutti quanti voi, vi auguro a tutti quanti una buonissima giornata all'insegna un po' del tempo un po' plumbeo. Stamattina già le prime gocce di pioggia scendevano sulle Madonie e si spera che entro domani insomma il tempo possa lievemente migliorare. Cos'altro volevo dirvi? Due cappelletti importanti. Il primo cappelletto riguarda una notizia che ho letto sui giornali regionali della Sicilia, esattamente sul quotidiano il giornale di Sicilia, e mi ha lasciato un pochino basito. Perché? Perché in un momento nel quale gente che va a chiedere soldi per pagarsi la bolletta della luce, per pagarsi l'affitto della casa, per fare la spesa, insomma, ancora nelle nostre zone non siamo arrivati a tanto, ma siamo arrivati già a non poter pagare più la bolletta, ed è un fatto gravissimo. Si rischia che alcuni genitori, alcune coppie, uomini, donne, insomma, la dignità umana rischia veramente di essere messa sotto i piedi. E leggo invece sul giornale che, pensate, per il ritardo dell'insediamento della nuova amministrazione regionale con Crocetta e quant'altri, hanno ritardato con una quindicina di giorni, 20 giorni ad insediarsi, bene, i parlamentari uscenti percepiranno per intero il loro compenso. Se mi abbassi un attimo per cortesia il microfono, lo sento troppo rimbombante, mi fai la gentilezza, grazie, va bene così. Dicevo, i parlamentari uscenti, i quali, se si fosse insediato 20 giorni fa Crocetta, il nuovo presidente della regione siciliana con la sua giunta, non avrebbero avuto diritto a percepire alcunché. Invece, con questo ritardo, penso un po', hanno pensato bene che insomma gli tocca, gli spetta il compenso dovuto. Al mio modesto punto di vista, farebbero cosa graditissima al popolo siciliano se questi signori, che percepiscono all'incirca 30.000 euro al mese, lasciassero questi soldi nelle casse della regione e che venissero devolute alle persone che hanno veramente bisogno. Credo che questa cosa non si farà perché insomma la nostra casta così chiamata, io non voglio omologarmi con gli altri, ma questi signori, non voglio fare di tutto nel buon fascio, come dice il mio collega di Rete 4 in una trasmissione televisiva che sta avendo grande successo, però sicuramente sarebbe un atto dovuto di lasciare tutto questo che non gli compete più. Non hanno lavorato questi 20 giorni, dunque già lavorano poco quando c'è da lavorare, figuriamoci in questi 20 giorni in attesa che si insediasse il nuovo governo regionale. Per cui io mi appello al buon senso, all'intelligenza di questi signori, che lasciassero questi 30.000 euro, 20.000, 15.000, quelli che sono nelle casse della regione, e che il presidente Crocetta li devolvesse in altre mani che sono incallose, insomma, che hanno lavorato e che purtroppo stanno perdendo non soltanto i calli, ma stanno perdendo la dignità. E alle persone più bisognose io mi sento di essere vicino. La cosa che mi sento di dire è: teniamoci forti sperando che il governo che verrà non ci tartasserà ulteriormente come siamo stati tartassati. Poi abbiamo scoperto i miliardi che vie hanno preso, che strade hanno intrapreso. Mi fermo qui perché in trasmissione, no, anzi, prima di annunciare gli ospiti in trasmissione, io direi di dare la linea alla regia. Mi pare c'è la pubblicità della radio, quindi prego la regia di mandare in onda i consigli per gli acquisti, e al rientro vi presenterò gli ospiti. A tra poco. Won't you rain on me tonight? Oh, life. Oh, life. won't you take me close to you? Far away, place away tonight. I'm wearing my heart on a noose. Far away, place away tonight. Tonight, my heart's on the just can't be satisfied. Orders and Jesus, won't you please hold on my life? Oh, hours and hours, like the she's won't you rain on me tonight? Oh, ride, free ride. Won't you take me close to benissimo, è un bel brano, devo dire, no? Un po' rockettaro, ma il mio amico Sharau, insomma, mi mette dei brani straordinari, oggi molto pimpante, complimenti. Cos'è, ha vinto il tuo Milan pure, no? Sì, stiamo scherzando. Allora, devo presentarvi gli ospiti in studio, ma prima desidero presentarvi uno dei tanti sponsor che mi supporta per questa trasmissione nel palinsesto CRM Piredio. Perché dico questo? Perché senza le pubblicità, né quelle che fate in radio né quelle di sponsorizzazione, il programma potrebbe andare in onda, perché non siamo Rai e nessuno qui percepisce, come dire, il canone come lo percepisce la Rai, quindi dobbiamo autofinanziarci. Allora, PM Ceramiche che cos'è? Intanto è uno showroom straordinario dove chi vuole farsi la casa, arredarsela anche con gli arredi bagno, beh, può farlo tranquillamente. Basta andare in contrada Fazzotta in Greco a San Cataldo Caltanissetta, oppure basta andare a 4 km, a 2 km dal bivio di Campo Felice dell'Ocera, sulla destra c'è PM Ceramiche SRL. Cosa vi offre in questo momento? Il bagno completo di rivestimento, sanitari, rubinetteria, box, doccia o vasca, quindi è tutto completo. Chi deve rifarsi il bagno può andare tranquillamente e ci saranno degli ottimi sconti e delle sorpresine. Poi i pavimenti a partire, pensate, da 7 euro al metro quadro, oppure tutto per l'edilizia. I numeri telefonici operanti sono lo 0921 93 55 51 oppure 393 92 88 087. Chiedete del signor Pietro, che sarà a vostra disposizione per ragguagliarvi su altri ulteriori sconti che effettua presso il proprio showroom o altre tipologie di merci che a voi servono, tipo il camino normale o il camino termoventilato e altri accessori vari. Quindi mi raccomando, PM Ceramiche SRL lo trovate a pochi chilometri da, scusate, dal bivio di Campo Felice di Roccella, venendo da Cefalù sulla destra. Grazie a questo sponsor, poi parleremo di altri, passiamo invece agli ospiti che abbiamo in studio, perché ne dobbiamo parlare, perché c'è un argomento scottante, un argomento di attualità. Ne hanno parlato anche in televisione di Levatura Nazionale in questi ultimi giorni, se ne parla comunque da anni. Desidero presentarvi la presidente dell'associazione GEA Global Heart Art, che è la signora, dunque, non è italiana, quindi dovrei pronunciare bene il cognome, Nina Kalinova. Ho detto bene, buongiorno signora Kalinova. Buongiorno anche a voi. Ecco, ad accompagnare la signora Kalinova invece una sicilianissima, insomma, che dovrebbe far parte anche lei adesso di questa associazione, la signora onoraria. Flavia Bonfiglio. Salve a tutti. Allora, vi ho presentato gli ospiti, tra poco parleremo con loro, chiederò alcune informazioni alla signora Kalinova, ma chiederò anche ragguagli alla signora Flavia Bonfiglio. Intanto parliamo di questa benemerita associazione che, di concerto, pensate, con altre associazioni, domenica 25 novembre, quindi tra qualche giorno, giornata mondiale della violenza sulla donna. Ecco, è un argomento scontatissimo e scottatissimo, perché insomma di donne anche uccise negli ultimi tempi con la violenza, soprattutto da parte di mariti, fidanzati, conviventi, sono scomparse, ecco, lo parebbe anche in questo senso, di donne che non si è saputo più nulla. E una collega che fa una trasmissione, che l'ha visto, insomma, se seguite quella trasmissione per pochi minuti vi renderete conto quante donne scompaiono, anche uomini, ma quante donne subiscono violenza e quante donne scompaiono o vengono uccise per mano o maltrattate per mano dei propri familiari, quindi all'interno delle mura domestiche. E dunque c'è una fiaccolata che parte alle ore 17.30 da Piazza San Francesco, alle 18.30 c'è un incontro dibattito nella Sala delle Capriate del Comune di Cefalù. Da ricordare che questa manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Cefalù, quindi grazie all'amministrazione comunale di Cefalù nella persona del sindaco il dottor Lapunzina, e anche dall'amministrazione comunale di Pollina nella persona del sindaco Magda Culotta. Perfetto. Poi c'è, insieme all'associazione GEA Global Art, c'è Cefalù Città di Ruggero, l'associazione, la cooperativa Iside, progetto Ali, e insomma, come vedete ci sono diverse associazioni che si sono... Circa una ventina già, hanno aderito. 20 associazioni che hanno aderito a questa bella... Vi ricordo, quindi non dimenticatelo, giovedì 25 novembre a partire dalle 17.30 da Piazza San Francesco, andateci tutti, perché tutti abbiamo sorelle, mogli, figli, eccetera, chi è un padre, chi è un marito, chi è un compagno, insomma, persone civili. Va bene che amano il dialogo e non la violenza, partecipiamo anche noi maschietti, perché siamo la causa scatenante di questa cosa. Prego. Sì, sì, infatti volevo sottolineare questa particolarità. Non è una fiaccolata delle donne solo per le donne, è una fiaccolata che riguarda l'umanità in generale. Brava. Quindi anche l'essere uomo, perché l'uomo, a parte il fatto, insomma, che qua stiamo denunciando dei problemi che non riguardano tutti gli uomini, per fortuna, meno male, sarebbe un'ecatombe. Esatto, ci sono, insomma, delle situazioni particolari che devono essere denunciate, devono essere prese in considerazione. Ma sottolineiamo proprio la necessità della partecipazione di molti uomini, molti esponenti del genere maschile, perché loro hanno delle sorelle, hanno delle compagne, anche hanno delle mamme, madri, hanno... Esatto, nel senso che la violenza, purtroppo, a quanto pare dalle statistiche risulta che c'è un'alta percentuale tra le mura domestiche, ma non solo, nell'ambiente del lavoro ci sono varie forme di violenza, oltre il mobbing fisica, e insomma altre, esatto, forme di coercizione. Infatti, sì, sì, infatti l'essere donna, vuoi o non vuoi, ti porta in qualche misura a doverti poi... sei sottoposto a tutta una serie di giudizi, esami, proprio per il fatto di essere donna. C'è da sfatare anche, c'è da sfatare un'altra cosa, non si capisce per quale motivo l'uomo può vestirsi come gli pare e se una donna indossa una minigonna è soggetta ad essere stuprata. Cioè, questo ancora io non sono riuscito da uomo ad entrare nella psiche di alcuni uomini, cos'è che scatta nella mente di questi esseri aberranti? Forse già entra in gioco la bestialità, però ecco, un'altra cosa, adesso non ricordo esattamente le date, non ricordo cosa è successo, sì. So che ci fu un movimento e anche una grande indignazione. Perché venne fuori che una donna che indossava i jeans non poteva denunciare uno stupro, perché nel momento in cui sfila il jeans lì c'è un atto consensuale. Ah, ho capito, certo. Non ricordo esattamente. No, ricorda bene. E questa cosa mi sconvolse perché, ripeto, la violenza, innanzitutto, da prima non è solo fisica, c'è una violenza psicologica. Ti senti nelle mani di qualcuno e in quel momento ti annienti come persona. E lì poi entra in gioco la violenza fisica e in quel momento mi sono sentita veramente indignata perché mi sono chiesta chi legifera, cosa pensa quando legifera o quantomeno che cosa pensano di fare per risolvere questo tipo di problematica. Infatti io sono d'accordissimo ad avere in Parlamento il 50% delle donne, perché facciamo più attenzione alla sensibilità femminile, anche perché senza le donne nessuno di noi sarebbe in vita oggi, siete voi che ci mettete al mondo. E quindi se si partisse da questo presupposto di massimo rispetto verso chi ci ha creato, quindi la mamma, sicuramente il papà ha fatto la sua piccolissima parte, ma la maggior parte del dolore, della partorienza, della puerpera, come si chiama in gergo tecnico, è la donna che sopporta molti più dolori. E io che ho assistito al parto di mia figlia so cosa significa. Per cui massimo rispetto nei confronti. Certo, c'è la donna che diventa poi mascolina, c'è la donna che reagisce, c'è la donna che ammazza anche lì, ma voglio dire. Però qui non mi pare che ci sia una violenza della donna sull'uomo, è l'esatto contrario. Quindi dobbiamo fare leva sulla nostra intelligenza, cercare di tirare il meglio fuori di noi stessi e quantomeno prevenire su certe situazioni. Ci fermiamo un secondo soltanto per leggere una pagina che ho tirato fuori da internet ieri sera, giusto per capire alcuni dati. Dunque, tramite la risoluzione numero 54134 del 17 dicembre 99, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e l'ONG ad organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno, quello che dicevamo poco fa. L'Assemblea Generale dell'ONU ha ufficializzato una data che fu scelta da un gruppo di donne attiviste ritenutesi riunitesi nell'incontro femminista latinoamericano dei Caraibi tenutosi a Bogotà in Colombia nel 1981. Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio, è stato un buon viatico insomma, del 1960 delle tre sorelle Mirabal, considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui tentarono di contrastare il regime di Raffaello Dinas Tuilio, 1930-1961, ben 30 anni di tirannia nella Repubblica Dominicana. E ci sono altri esempi, bisogna anche dire grazie ad Amnesty International, Nessuno Tocchi Caino e tantissime altre associazioni di levatura internazionale che si stanno occupando di questo fatto gravissimo, peraltro di inciviltà assoluta, di barbarie assoluta. La donna può essere, ci può essere un dialogo, ci può essere un diverbio, ma mai arrivare, certo, alla soluzione finale di bastonare o peggio ancora poi di uccidere. Se mi permette, prego. Volevo agganciarmi al discorso da lei appena fatto, quindi i dati che lei ha estratto da internet, perché anch'io ho preso qualcosa. E ci agganciamo all'Italia perché noi di solito quando parliamo o pensiamo alla violenza pensiamo a altri paesi sì, soprattutto meno sviluppati. Però ecco, in questo momento io ecco, leggevo questo, che c'è un rapporto presentato a Ginevra da Rashida Manjou, se pronuncio bene il nome, che è una speciale rapporter dell'ONU, che ha visitato l'Italia, il nostro paese, a gennaio. Sì. E si esprime in questo modo, dicendo che la legislazione nel nostro paese è buona, ma non ha portato ad una diminuzione dei femminicidi, o non è stata tradotta in un miglioramento della condizione di vita delle donne o delle bambine. La violenza continua a essere un problema culturale. La maggior parte degli episodi non viene denunciata, spiega questo rapporto, perché è vissuta in un contesto culturale maschilista in cui la violenza domestica non è sempre percepita come crimine e in cui le vittime sono economicamente dipendenti dai responsabili della violenza stessa. Questo è il rapporto sulla situazione in Italia. Per quindi cui c'è un bel da fare, insomma. Sì, come addirittura ecco, già qui io ho stilato purtroppo una tristissima un tristissimo elenco, sono 73 le vittime da gennaio 2012. Quindi ancora non siamo arrivati all'anno, siamo già a 73 cadaveri. Sì. Donne che sono state uccise per futili motivi. Io adesso porto qualche esempio, se mi consentite. No, prego. Non me ne vogliono purtroppo le altre vittime, a cui non do, come dire, luce. La trasmissione purtroppo è limitata, ecco, non possiamo, però, ho fatto riferimento ad alcune donne italiane senza nulla togliere, poi perché insomma magari ci sono più vicine. Noi pensiamo che la violenza su donne straniere, in parte forse, non dico che la giustifichiamo, ma la sottovalutiamo. Insomma, e anche quello è un errore. È un gravissimo errore. Allora, la signora Antonella Riotino, di 21 anni, una ragazza, il 6 gennaio del 2012 è stata soffocata a Putignano dal fidanzato 19enne geloso. Antonia Azzolini, 66 anni, il 7 gennaio del 2012, uccisa dal marito in un hotel, senza un apparente motivo. Fabiola Speranza, 45 anni, 9 gennaio, dopo l'ennesima lite il marito le ha sparato fino a scaricare la pistola. Potrei andare avanti? No, ci fermiamo un secondo, perché volevo fare una domanda alla Presidente, invece, alla signora Calinova, che da qualche anno risiede in Italia. Intanto lei fa la fotografa, e che foto, ragazzi, straordinaria. C'è una locandina che qui, vediamo se la regia riesce a inquadrarmela questa locandina. Riusciamo a inquadrarla, sì? Te la porto dall'altra parte, mi fa la cortesia, no, la dia alla signora che porta in regia la locandina. Aspetta un attimo, allora c'è un po' di trambusto. Allora, diretta, signora Calinova, dicevamo l'occhio romantico della foto, cogliere gli attimi, i momenti. Da passare dalla fotografia, quindi dall'artistico, arrivare invece a fare un'associazione che si occupi, io so che si occupa di molte cose, me ne nuclei qualcuno, di cosa vi occupate principalmente, oltre chiaramente a dare delle sensibilità su fattori sostanziali? Intanto noi siamo un'associazione nata da pochissimo, il giorno 22 aprile 2012 è nata la nostra associazione GEA, Global Lead Art. Ecco, alle spalle, scusi, vedete che c'è già la nostra locandina, il cameraman la sta inquadrando, ecco. Io poi la descrivo a parole, perché grazie parlo meglio regia. Con la immagine, come con il mio italiano. No, non si preoccupi. Allora, questa associazione è formata di 4 donne straniere nel direttivo, praticamente un po' includiamo, diciamo, un piccolo mondo a finale. Io sono la slovacca, poi abbiamo la nazionalità. Mi piace questo, io sono la slovacca, l'altra è la rumena. Tedesca, svizzera, abbiamo anche una signora ivoriana, sì. Poi abbiamo anche una socia irlandese. In qualche modo noi cerchiamo di fare diversi progetti che promuovono l'arte, che è quel linguaggio universale, il ponte che unisce diverse nazioni e contribuisce all'uguaglianza e reciprocità, proprio forse perché l'arte ci aiuta anche a emozionare. Poi quando emozione è, come dire, è uguale per tutti, allora anche se sbagliamo qualche articolo, mettiamo qualche doppione più o meno, il linguaggio è veramente universale. Sì. Abbiamo fatto diversi progettini da quando abbiamo messo su questa associazione. Questo è l'ultimo che abbiamo pensato promuovere giorno 25 novembre, questa giornata mondiale sulla violenza sulle donne. Sì. Abbiamo coinvolto diversi amici e associazioni che ci danno una mano con la partecipazione e anche organizzazione. Abbiamo chiesto fare questo evento a Cefalù per avere più visibilità e anche più partecipazione. Dato che noi siamo donne, ci pare giusto partecipare con la presenza femminile e portarsi, come abbiamo detto, anche i mariti e parenti maschili, perché è un argomento che tocca a tutti. In qualche modo speriamo che riesce, vogliamo coinvolgere più gente possibile, perché magari è una cosa che ancora non si è fatto dalle nostre parti. Mm-hmm. Anche penso che qua in Sicilia, perché noi siamo proprio straniere e abbiamo vissuto un altro tipo di mentalità, altro ambiente, c'è molto da lavorare, c'è molto ambiente masculista. Questo riguarda un po' la nostra storia, dicevamo, sì, prima avete parlato già dell'arabo, prima. No? Io potrei, mi ha domandato come siamo arrivati a questo tipo di progetto. Sì. Io ho anche un po' curriculum professionale, mi piace lavorare un po' più sul sociale, faccio un po' di tutto, mi dedico anche ai matrimoni, un studio fotografico, ma mi piace veramente emozionare con la fotografia e raccontare una storia, perché penso che ogni fotografia è una piccola storia di una grande storia. Allora, riuscire per un attimo a cogliere l'eternità, per me è il massimo che posso dare. Ho fatto piccoli progetti come ricerca personale, ho frequentato le suore francescane che si trovano a Tusa. Mm-hmm. Tramite loro ho conosciuto molte realtà femminili sofferenti, Parlavamo qua prima di Colombia, loro praticamente sono una piccola comunità che vivono la prima regola di San Francesco, praticata in versione femminile, è molto dura. I tempi di oggi praticamente là non esiste telefono, internet, orologio, piedi scalzi, vivono di provvidenza, è una realtà completamente diversa. Queste donne erano 12 donne quando li ho conosciuto io, molto giovane, sono riusciti a fondare un'altra comunità in Colombia. Allora ho sentito diversi racconti di violenze, di tanti tipi di violenze, erano anche loro promoter, erano molto coraggiose e sono riuscite anche un po' influenzare sulla... sensibilizzare anche su questo tema. Intanto due cose, non mi piace la parola che lei giustamente ha detto, perché non essendo italiana dice noi straniere. A me piacerebbe molto invece, noi siamo un popolo talmente cosmopolita e riusciamo talmente ad aprire le braccia a chi arriva nella nostra terra, cosa che spesso non è stata fatta nei nostri confronti quando siamo stati immigrati all'estero. C'era un po' di pregiudizio nei nostri confronti, come noi abbiamo avuto nei confronti dei neri, dei rumeni, eccetera. Però io credo fondamentalmente che chi arriva da noi, soprattutto in Sicilia, deve sentirsi a casa propria. No, molto ospitali, su questo non c'è. Allora, mi fa veramente piacere, dica noi qui, no, noi siciliani. La ritengo facente parte della nostra grande famiglia e della nostra grande cultura, peraltro viene dalla Slovenia, che ha una cultura straordinaria. Sì, su questo siamo d'accordo. La fermo un secondo, dovremmo mandare i consigli per gli acquisti, manca ancora un minuto. Allora, quindi abbiamo capito come nascono certe sensibilità, bisogna averle dentro se stesse, e questa, insomma, la signora, sia Flavio Bonfiglio sia la presidente di questa organizzazione, la signora Nina Calinova, vi ha raccontato che come si parte con la sensibilità dell'occhio per cogliere l'attimo, il momento fuggente, che sia triste, che sia bello. Evento di matrimonio è un bel evento, un bel momento, ma anche un'uccisione, il mortalare. Io ricordo, ho davanti agli occhi un'immagine di un Viet Cong ragazzino che assiste al bombardamento nordamericano e resta completamente nudo camminando per strada, e soltanto poi alcuni militari americani. Mi colpisce quindi la foto, come anche un altro grande fotografo che lavora con Benetton, non vorrei fare pubblicità, adesso mi sfugge il nome, Toscani. È uno che coglie l'attimo e poi ce lo trasmette. Sono anche immagini forti a volte, ma servono a scuotere l'animo umano, o per meglio dire l'intimo dell'animo umano. La metà di una bugia non fa la verità, quindi nonostante tutto non potrò più amarti. E mi prendevo in giro, avevi tutta la vita davanti, lo capivo. La metà di ciò che penso non l'ho scelto solo io, che credere di amarti non sa bastarmi. Anche stringendoci o parlandone e negandolo, ripenserai ancora a tutto il bene che ti ho dato. Solamente io, ripenserai ancora a quanto il niente tuo per me fu tutto, e per sempre hai perso un pezzo di me, e lo sai che sono stato troppo buono, ma che stanco ormai non posso più. Tutto quello che ho sbagliato lo so bene anche io, ma non sono mai arrivato a sentirmi così tanto inutile. E in tempi avversi ti salvai la vita tante volte, non ti accorgesti. Ripensare stato troppo buono, ma che stanco ormai non posso più. È vero, è complicato odiarti, nessuno al mondo può negarlo, tantomeno oggi io. È vero, è complicato amarmi, né io né te ci riusciamo. Io da sempre, tu per niente. Ripenserai ancora a tutto il bene che ti ho dato solo, solamente io. Ripenserai ancora a quanto il niente tuo per me fu tutto, e per sempre ho perso un pezzo di me. E lo sai che sono stato troppo buono, ma che stanco ormai non posso più. E allora sono esattamente in questo momento al nostro Voce, le 12.37, 38 secondi, abbiamo in diretta un esperto, è un ad hoc, insomma è uno psicologo, e stiamo parlando dell'amico, ormai conclamato da diversi anni, ci conosciamo, so la sua professionalità, peraltro si sta occupando di giovani che hanno delle grosse difficoltà di inserimento, e sto parlando del dottor Roberto Turisi, che ringrazio per aver accettato l'invito e per essere qui con noi. Ciao Roberto. Buongiorno Filippo e grazie a te di avermi invitato. Allora Roberto, intanto ti chiedo come stai, di prassi? So abbastanza che bene, come hai appena anticipato tu, sono appena uscito dalla comunità che gestisco come psicologo, dove ogni giorno incontro la difficoltà di molti ragazzi e delle loro famiglie. So che è il tema fra l'altro della trasmissione di oggi. No, parliamo di violenza sulle donne. Sì. Allora, tu sai che, cioè, te l'ho annunciato ieri fuori onda, che il giorno 25 novembre è il giorno delle violenze sulle donne in tutto il mondo. Sì. A Cefalù, tre benemerite associazioni, una cooperativa, l'associazione Agia Global Earth Cart, che è gestita. Mi dovresti abbassare per cortesia, scusa un attimo Roberto, l'audio è troppo forte. Ecco, se me l'abbassi un pochino, c'è un fruscio delle macchine, lo sento troppo, grazie, va bene così. Allora ti dicevo, il 25 ci sarà una fiaccolata a partire dalle 17.30 da Piazza San Francesco a Cefalù, con la conclusione di un incontro dibattito sul tema in atto alla Sala delle Capriate. Quindi si parla, come tu ben mi insegni, perché anche tu, sia per il lavoro che fai, sia perché sei un attento osservatore, sicuramente avrai sentito parlare di tantissime, 70 addirittura le morti da gennaio l'anno scorso fino ad oggi in Italia per mano di mariti, amanti, compagni, fidanzati, eccetera. Roberto, la domanda che ti lascio naturalmente alla signora, ti farà la domanda la signora che è qui accanto a me, che è un'esperta anche di comunicazione, l'ho scoperto adesso, la signora Flavia Bonfiglio, e poi ti farò fare qualche domanda dalla signora, se vuole, la presidente dell'associazione ART, che è la signora Nina Kalinova. Con piacere. Allora, la domanda per iniziare te la dico io. Noi maschietti, c'è un discorso, non è un discorso regionalistico, perché se fosse circoscritto soltanto in Sicilia, beh, noi abbiamo origine arabe, le donne sono il nostro possesso, no? Siamo un po' atavici nelle cose, ma è un discorso internazionale, soprattutto italiano. Allora, cos'è che scatta nella mente di questi benedetti uomini tanto da arrivare al punto di uccidere la donna amata? Un po' l'hai detto tu quando hai detto che è un problema internazionale. Io credo sia esattamente legato all'identità dell'uomo inteso in quanto genere umano, non in quanto del maschio. Quando prima accennavo alle difficoltà che incontrano i ragazzi, sì, non era un errore da parte mia dire che oggi vi occupate anche di questo, perché chi fa una violenza su una donna non la fa soltanto a una donna, la fa ai propri figli, la fa ai ragazzi, la fa al futuro, atto una violenza sul futuro. Credo sia un problema legato alla globalizzazione dell'identità, di un uomo che è troppo attento e votato a difendere la propria identità di maschio, dimenticando di dover prima affermare la propria identità di uomo e di essere umano. Bravo, questo credo sia un passaggio fondamentale, e che necessariamente è legato alla condizione dell'essere umano oggi, sempre più in difficoltà, sempre più in preda a cambiamenti che non sa gestire, che non sa affrontare, troppo più veloci di lui e soprattutto del suo cuore. Scusami, ti posso interrompere un secondo per capire meglio io. Diciamo che la globalizzazione, per meglio dire, il fatto di velocizzare la nostra vita con gli impegni, le banche, i soldi, quelli che mancano, questo un po' scatena, no? La bestia che c'è dentro di noi, e il fatto che la donna oggi abbia l'opportunità anche di fare carriera, di lavorare. Questo è uno degli elementi, a mio avviso, fondamentali. Anche scatenanti. Anche se potrebbe sembrare in qualche modo una cosa molto distante. In realtà ha molto a che vedere con ciò che viene a scatenarsi all'interno della psiche del maschio, perché si vede un po' detronizzato, si vede un po' defraudato di quello che storicamente era il maschilismo imperante, sì. Perché noi pensiamo di essere parte di una società patriarcale, ma il problema non è quello, il problema è che siamo parte di una società maschilista, che è un concetto diverso, violento e negativo, perché la società, se fosse solo patriarcale, potrebbe anche andare bene. Molte sì. società in passato si sono basate su questo modello, ma come tante altre ce ne sono state di linea matriarcale, avevano altri, diciamo, altri fondamenti, ma funzionavano. Il problema è quanto questo ale diventa ismo, quando diventa fondamentalismo, quando diventa maschilismo, quando diventa violenza. Perfetto. Roberto, io passerei volentieri la palla, se vuole fare qualche domanda, alla signora Bonfiglio. Flavio, vuole intervenire lei, visto che è donna, insomma, sì. Chi meglio di lei potrebbe fare una domanda più ad hoc? No, io ascoltavo con molto interesse il dottore Turisi, che ne approfitto e saluto, grazie per la sua sensibilità. Buongiorno, grazie. Questo ci rincuora moltissimo. E volevo sapere, so che esiste il telefono rosa, credo che sia a livello nazionale, non so dire, ma in Sicilia, perché noi, ecco, è vero che noi dobbiamo parlare di grandi numeri, però è anche vero che dobbiamo un po' contestualizzare nel nostro piccolo ambiente, perché altrimenti forse quando si parla di grandi numeri ci perdiamo, ma nel nostro piccolo, nella nostra piccola realtà, esiste qualcosa che può, perché noi ci stiamo muovendo così in maniera, diciamo, senza avere grandi preparazioni, ma intanto cominciamo ad alzare la voce, fare un po' di rumore, alzare un po' il polverone, quindi c'è questa fiaccolata, ci sarà questo incontro dibattito, però poi ecco la cosa che ci verrà sicuramente chiesta, anche se noi non potremo fare grandi cose, possiamo cominciare a pensare, rendere concreto il pensiero, cioè cosa si può fare, che strumenti abbiamo per come prevenire magari, o come curare successivamente. Sì, anche perché sento che molto spesso, a parte si denuncia poco, però quelle poche denunce spesso vengono sottovalutate, non si prendono in considerazione. Lei ha detto prima alzare la voce, credo questa sia la chiave di lettura più importante sulla quale ci dobbiamo basare, nel senso che nel momento in cui noi stiamo per attuare un cambiamento, il cambiamento in realtà lo poniamo già in essere, è già in atto, nel momento in cui inizia a cambiare un po' la mentalità sta avvenendo un cambiamento. Quando si alza la voce non si alzano le mani, è necessario parlare, è necessario parlarne, tanto più grave è il problema in questione, e questo è un problema che ci accomuna tutti, che interessa tutti, perché sono le nostre madri, le nostre mogli, le nostre sorelle, sono quelle persone che rendono vivo anche l'essere umano in quanto genere maschile. L'uomo senza la donna non è dimezzato, è azzerato, è annullato. Noi esistiamo in quanto esistono le donne, chiaramente. Alzare la voce è fondamentale proprio in un momento in cui l'incapacità è data proprio dal non saper gestire un conflitto. Una volta c'erano i conflitti nelle famiglie, facevano parte delle relazioni. Adesso i conflitti vengono messi da parte per gestire situazioni che non hanno nulla a che vedere con le relazioni, ma che si ripercuotono necessariamente sulle relazioni, generando la distruttività. Quindi la nostra incapacità di gestire questo conflitto, quindi la nostra incapacità proprio di alzare la voce e di dire le cose anche all'interno delle famiglie, va a generare la distruttività. Un concetto sul quale mi vorrei soffermare è l'incapacità appunto di gestire le relazioni. Una volta c'era un concetto bellissimo di relazione affettiva, adesso io sto scrivendo un testo che si intitolerà Le relazioni affettine, utilizzo questo gioco di parole. Utilizzo questo gioco di parole per dimostrare quanto in realtà il problema è la distruzione della relazione in quanto tale. Bene, da questo punto di vista io credo che ci sono molti centri e molte strutture che già lavorano a favore della donna, ma ripeto, dire a favore della donna è riduttivo, a favore degli esseri umani e anche dei maschi, perché chi preserva la donna preserva anche il genere. In generale, preserva l'umanità, sono le comunità per le madri e i bambini, il telefono giallo, il telefono rosa, scusi, come lei prima citava, e ci sono diversi centri anche a livello regionale, a Palermo stesso. Quindi io credo che se poniamo in essere un cambiamento dobbiamo proprio dall'iniziale alzare la voce, questo cambiamento può essere posto in essere. Roberto, parlarne, è fondamentale parlarne. Roberto, ti fermo un attimo, sei stato molto esaustivo, presumo, nella risposta. Sì, moltissimo. Sì, però grazie. Allora, io vorrei invitarti su una cosa, a riflettere, e poi mi darai la risposta fuori o dentro l'onda, vedi un po' tu, quando ci incontriamo ne discutiamo meglio, perché conoscendo la Presidente, conoscendo la signora io Flavia... Io mi auguro di essere a Cefalù per la giornata contro la violenza sulle donne. Non sarebbe male. Domenica 25. Non sarebbe male, Roberto. A che ora? E alle 17.30 parte la fiaccolata da Piazza San Francesco e alle 18.30 dovrebbe concludersi in Piazza Duomo e all'interno della Sala delle Capriate ci sarà un incontro dibattito con interverranno degli esperti, delle persone che lavorano sul campo. Visto che è una domenica spero e penso di poterci essere, casomai poi avremo modo di... Roberto, io ti voglio invece strapparti invece una promessa a supporto delle due donne che ho sulla mia destra. Che vedo molto sensibili, insomma, e non potrebbe essere che così. Qualcuno magari mette come lo struzzo la testa sotto la sabbia, facciamo finta di nulla. No, non possiamo far finta di nulla, e questa è la ragione per la quale ho imbastito questa trasmissione. Ti volevo soltanto, prima di salutare, poi ti passerò un attimo la parola alla Presidente, poi chiudiamo perché i tempi sono strettissimi. Straparti una promessa: nel caso nel quale la Presidente di questa Olus, insieme ad altri Presidenti, volesse porre in essere nelle nostre zone, vedi Cefalù, che insomma è il capo, poi il punto di arrivo e di partenza di molte cose, non solo del turismo, di iniziare qualche iniziativa, scusa un po' in tipo di parole, il sì. Tuo supporto professionale lo potresti mettere a disposizione di questa associazione? Assolutamente, senza un non avevo dubbi, Roberto, grazie. Onorato, e vi ringrazio la Presidentessa, la dottoressa, per quello che fa quotidianamente. Nel caso... parlarne è importante, ma chi agisce ogni giorno in questo campo sappiamo le difficoltà. Eventualmente, Roberto, mi autorizza lasciare il tuo numero di cellulare alla Carinova, alla signora Carinova? Con piacere. Bene, ti lascio con una battuta della Presidente e poi chiudiamo. Prego. Sì. Buongiorno, grazie per la sua partecipazione, si è dimostrato molto sensibile. Riesci a sentirla? No, io non sento. Allora, è meglio che parli da questo microfono. Allora. Pronto? Buongiorno, sì. Dottore Turisi, grazie per la sua sensibilità, anche che rappresenta la parte maschile, quella parte migliore. Allora, l'aspettiamo domenica pomeriggio e speriamo che può fare qualche intervento e facciamo qualche reazione su questa tematica. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie a lei. Roberto, grazie come sempre per la tua grande professionalità e la tua grande sensibilità nel grazie sociale. Grazie di avermi invitato, ci vediamo presto. Ma sai che i nostri microfoni sono sempre aperti, non soltanto per l'amicizia che ci contraddistingue, ma soprattutto per la grande professionalità e umanità che distingue te. Ti ringrazio di tutto, ma soprattutto quando mi inviti per parlare di temi come quello di oggi sono ancora più contento. Quando vuoi, faremo così, tra una ventina di giorni, magari prima di Natale, in occasione degli auguri del Buon Natale a tutte le donne, ecco, che hanno subito violenza, faremo una puntata ad hoc dove sarai presente anche tu, così interagirai con il personale che in questo momento sta sensibilizzando l'opinione pubblica, ok? Grazie. Evviva le donne, sempre. Ciao, grazie Roberto, buon lavoro. Domenica. Allora, tocca a me un attimo di sponsorizzazione, poi do la linea all'energia, breve pausa musicale, poi faremo una piccola discussione e chiameremo invece in causa il vice sindaco di Termini Imerese, chissà che non possiamo sensibilizzare anche lui in questa situazione. Allora, non ci sono soltanto le farmacie, ci sono anche le parafarmacie, dove in caso di emergenza non vi trovate la ricetta sotto mano, magari il vostro medico curante ha chiuso già i battenti e posso sbattervi la testa al muro, beh, pazienza. Andate lì, pagate e vi comprate quello che vi necessita. Nella fattispecie la dottoressa Guardi, se non leggo male, ho gli occhiali inforcati da lontano, quindi ecco, me li tolgo da buon vecchietto. Dunque, la dottoressa Guardi, in via Dante Alighieri a Castelbuono, è a vostra totale disposizione. È una parafarmacia di tutto riguardo. Troverete tutto quello che vi necessita, la siringa, ma non è soltanto quello. Abbiamo delle firme prestigiose, come per esempio Aveno, prodotti per il corpo e pelli sensibili, oppure integratori, vitamine mix, Junior, Pappareali, esclusivista Rock, Roche, cosmesi, viso, corpo, antirughe, antietà, viso, donna, stiamo parlando di donne quindi, prodotti per l'infanzia e poi i presidi sanitari, cosa stiamo dicendo, cosa voglio dire con i presidi sanitari, la stampella, il girello, il copricoscia, insomma tutte quelle cose che servono quando ci si fa male e si ha necessità di un supporto logistico, quindi ricordate questo nome, la parafarmacia dottoressa Guardi, vi do anche il numero di telefono 0921 672254, chiamata per un appuntamento per qualche ragguaglio, ma andatela a trovare perché veramente ha degli assortimenti straordinari e naturalmente buona guarigione. Detto questo, io direi di dare linea alla regia, sentiamo un po' di musica, se è il caso anche un po' di consigli per gli acquisti e poi rientriamo con gli argomenti che abbiamo. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Chora, Gaiteiro! Gata, me liga, mas tá tudo embalada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá tudo embalada. Tem Gustavo Lima até de madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. A galera canta assim, ó. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar, curtição. Me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima. E allora parliamo sempre di casa, e lo so ragazzi, ma la casa oggi è vessata da diverse tasse, insomma il nostro caro Monti con lo spread, con la scusa dello spread, poi abbiamo visto invece i miliardi che se ne sono beccati. Comunque parliamo di casa, io devo ristrutturare la mia casa, cosa faccio? Nel senso di finestre, di porte, allora chiamo Italfinestre, SRL, produzione porte e finestre in PVC e alluminio, dove lo trovo? L'esposizione in via Roma 2H a Cerda, in provincia di Palermo. La lavorazione invece è incontrata a Baiata, Cerda, sempre in provincia di Palermo. 0900 091 scusate 8992 7. 57. Chiamateli, perché la produzione, a parte le porte interne anche su misura, su richiesta e su misura, e poi ci sono le zanzariere che d'estate insomma servono, perché sennò se vedete zanzare tigri ci massacrano. Ma oltre questo abbiamo una produzione di cucine componibili, insomma tutto quello che necessita per l'arredo della casa. Andate a trovare Italfinestre SRL in via Roma 2H a Cerda, chiamando prima, fissatevi un appuntamento, visitate lo showroom. Anche il 329 è il numero di cellulare, qualora il fisso non dovesse rispondere nessuno perché magari sono fuori per motivi di lavoro. Troverete un ampissimo assortimento di maniglie. 329 45 15 691. Italfinestre è con voi. Detto questo, torniamo al discorso di prima. Quindi abbiamo sentito il dottor Roberto Turrisi, che è uno psicologo di una certa rilevanza, perché oltre che scrive, oltre che a occuparsi di faccende attinenti a giovani che hanno bisogno, lo diceva prima lui in diretta radiofonica, che hanno bisogno di continua assistenza psicologica, si occupa anche del sociale. Quindi ben disposto nei confronti della manifestazione, parteciperà, mi auguro, essendo domenica, che possa essere libero dagli impegni che lui si è assunto a Palermo, e sarà insieme a noi quindi domenica 25. Io non so se potrò partecipare perché ho altre situazioni, però se la cosa si sviluppa in un certo modo sarò felicissimo di essere presente, presenziare insieme a voi e dare un apporto, voglio dire, quantomeno morale, perché di più non riesco a fare, non essendo un medico, non essendo un poliziotto, un magistrato o un legislatore, posso soltanto dar voce a chi voce non ha. Ecco, se ci sono dei casi che bisogna denunciare, li portiamo anche qui in trasmissione, siamo liberissimi, senza fare nome e cognome di persone, perché la privacy per me è fondamentale. Possiamo parlare anche di fatti reali, concreti, che succedono nelle nostre zone, perché a volte quando sentiamo in televisione hanno ammazzato tizio, il marito sparato, ma è successo a Milano. Ah, ma qui da noi, da queste parti, non succede nulla, non è così. Sotto bosco, insomma, forse neanche la vicina di casa si accorge di quello che può succedere dentro la casa del proprio vicino. Ma poi, ecco, lo psicologo potrebbe anche aiutarci a capire, perché molto spesso la vittima di una violenza, di qualsiasi forma di violenza, in qualche modo si mette in discussione, quindi non denuncia o teme di essere la responsabile prima di quella violenza, cioè se l'ha subita è perché in qualche modo l'ha provocata, cioè è un meccanismo particolare. Poi speriamo che il dottor Turrisi possa meglio documentarci in questo senso, perché molto spesso, ecco, la denuncia non viene fatta perché chi subisce violenza si sente in prima linea, in prima persona, colpevole di quella violenza. Senta, è chiaro, io ho percepito la domanda che lei ha fatto al dottor Turrisi, che a parte che ci sono dei presidi, va bene, ma a Palermo, Catania, cioè i centri grossi dove ci sono degli ambulatori specializzati che accolgono queste persone, che li supportano psicologicamente e quindi danno loro la possibilità di riprendersi, tra virgolette, dagli shock che hanno subito in quel momento, mentre dalle nostre parti questo non c'è. Mi par di capire che lei, insieme alla Presidente, quindi alle organizzazioni che vi state occupando di questa faccenda molto pesante, molto grave, brutta per molti aspetti, di avere un centro, un punto di riferimento a meno qui a Cefalù. Avete idea di quelle che possono essere le spese, che chiaramente bisogna affrontare, perché bisogna affittarsi, insomma, una stanza, mettere uno psicologo, mettere un medico che sia di pronto intervento nel caso in cui si dovesse presentare l'ipotetica violenza, no? No, qua faccio parlare al Presidente perché io non so esattamente. Credo al momento attuale ancora in effetti non abbiamo avuto modo di pensare, cioè quello che dicevo, dottore, noi in questo momento abbiamo pensato quantomeno di sollevare il problema a livello locale, cioè di fare qualcosa per dire ci siamo e vogliamo denunciare questa situazione, che perché il silenzio in qualche modo, prego, il silenzio in qualche modo favorisce o quantomeno non aiuta, per cui è anche a senso, sì, sì. Intanto noi cominciamo con questa piccola iniziativa, cioè cominciamo a parlarne e poi sicuramente appoggiandoci a del personale competente, perché noi in questo momento, ecco, io poi in particolar modo non ho una grande competenza, mi avvicino a questo mondo, voglio capire meglio, però ecco, mi affido alle mani di persone competenti. Sicuramente con il loro consiglio e muovendoci tutti insieme possiamo vedere se di realizzare qualcosa di concreto. La stop un attimo, prima di dare la parola alla Presidente, mi incombe la pubblicità, lo sapete anche in televisione, lo fanno, perché se no non ci fanno più lavorare, non possiamo lavorare. Consigli per gli acquisti. Ecco. This is love, this is love, this is love. notes on a sheet. The dope crusader, funky terminator. I created me a rocket just a week or rocket later. And the way the beat is knocking got me feeling. Cause the DJ got me walking on the ceiling. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, feel what I feel. If you want it like I want it, then baby, let's get it tonight. If you feel it, say hey. E allora, sono esattamente, siamo in diretta, rigorosamente in diretta, 13.06 e 27 secondi, due minuti ancora e poi chiudiamo la trasmissione perché arriviamo a 15 e quindi come tutte le trasmissioni hanno un inizio e una fine e anche noi dobbiamo concludere. Vi ricordo naturalmente la differita che sarà domenica intorno alle 9.30 circa e poi chi vuole seguirci su internet può farlo sia on air, cioè in diretta, cliccando www.crmpiradio.it. Se volete invece ascoltare le puntate precedenti di Carta e Penna o di qualsiasi altra trasmissione nel palinsesto di CRM, andate su podcast e vi risentite le trasmissioni che più vi aggradano. Allora, io sono in buona compagnia, devo dire in dolce compagnia, di un'amica che poi la moglie di un mio carissimo amico, tra l'altro abbiamo scoperto da poco, con la signora Flavia Bonfiglio, è la presidente dell'associazione che il 25, vi ricordo, non potete mancare, della GEA Global Earth Art, che è la dottoressa Flavia, Nina Calinova, non voglio sbagliare i cognomi per carità di Dio, la quale insomma pur non essendo italiana ma vive in Italia, si è inserita bene soprattutto a Finale di Pollina ma tutto nell'Interland della provincia di Palermo e non solo, sta portando avanti dei progetti straordinari. Tra questi vi ricordo giorno 25 novembre, non mancate, giornata mondiale della violenza sulla donna, con due patrocini straordinari, il primo del comune di Cefalù e poi del comune di Pollina. Quindi grazie a entrambi i sindaci, sia alla signorina, alla signora Culotta, sia all'amico La Punzina, per questa sensibilità. Poi alla 17.30 del 25, che è domenica, ve lo ricordo, quindi scrivetevelo con carta e penna, ecco, prendete carta e penna, prendete appunto, da Piazza San Francesco. Invece alle 18.30 c'è l'incontro dibattito, dove possibilmente interverrà anche il dottor Roberto Turrisi per dare maggiori chiarimenti su quelle che sono le fobie dell'essere umano, uomo, senza lato, uomo, se così si può chiamare quando diventano belve, eh? Allora, stiamo in fase di chiusura, io gradirei che cominciasse a chiudere con qualche notizia per il futuro, a parte il giorno 25 con l'associazione, di cos'altro in mente di porre in essere, cos'altro può fare nel tempo buttiamola lì, su, buttiamola lì. Cosa mangio la sera? Allora vedremo, come si dice, dalla cosa nasce cosa. Uh-huh. Tanto io appello ora, non andiamo a passi lunghi, appello ora per questa domenica che è una puntata importante. Vorrei descrivere a parole questa locandina che ho realizzato. C'è una immagine di un volto profilo femminile che butta ombra. Con una mano con un coltello alzata contro di lei. In prima fila c'è una rosa rossa, che è vera, è reale. Allora tutto quello che ombra, io mi auguro che sparisce, che quando spunta la luce, che tutto se ne va, rimane solo la rosa. Questo è l'augurio che do a tutte le donne e tutti quelli che vogliono partecipare per questa giornata, spero straordinaria, che la rendiamo veramente reale, non solo un dibattito, ma vediamo dare sostegno a chi ha bisogno. Grazie a tutti per la partecipazione. Passo a parola. Grazie alla presidente dell'associazione, la dottoressa Nina Kalinova. Io devo abituarmi, anzi che parlo un pochino così, è giusto. Noi subito siamo intervenute. Sì, no, siete bravissime. Ma la comunicazione è di casa da voi. Poi il bello è che mi avevano detto: no, ma come da radio noi? E me invece poi scopro che insomma sono abbastanza esperte nel settore. Flavia, vuoi concludere tu con qualche nota? Sì, io stavo ripensando quello che aveva detto il dottore Turrisi, perché parlava della violenza. Noi, ecco, parleremo della violenza sulla donna. Però mi è venuto in mente questa immagine, quando c'è violenza all'interno delle mura domestiche, spesso i bambini assistono impotenti a questa violenza. Sono quindi, dei traumi, quando, atroci. Esatto, quindi quando si parla di violenza sulle donne, spesso anche cioè questa cosa, ecco, è un'ombra che si getta anche sull'infanzia, sui bambini, e quindi è un tema che assolutamente deve essere preso in considerazione e bisogna necessariamente attivarsi per portare avanti delle iniziative che portino poi, ecco, a delle soluzioni, e presto i dati Istat ci diranno: in Italia non c'è più violenza sulle donne. Sarebbe una bellissima notizia. È volato uno schiaffino, su. No, io invece desideravo concludere, e poi devo dare lettura di un ultimo sponsor che insomma ci dà anche questo una mano d'aiuto a tirare avanti. Spesso noi ci dimentichiamo e non facciamo mente locale. È vero che la vita è frenetica, è vero che ci sono difficoltà economiche, la bolletta da pagare, i figli da mandare a scuola, è vero che il lavoro è diminuito, è scemato, siamo in una fase di depressione economica di levatura internazionale. Una volta magari dici vado in Germania, ma anche lì cominciano a esserci problemi, quindi siamo circondati da un bel po' di problemi. Però, amici maschi, cari mariti, cari compagni, nel momento nel quale l'ira vi sale, vedete un attimo di mettere le mani in tasca e fate un attimo di mente locale. La discussione è molto semplice: dire queste quattro parole a voi stessi, come se parlaste con la vostra donna. Tu ogni tanto mi fai uscire fuori di senno, ma ti pare possibile che io arrivo a casa e non trovo la pasta pronta perché tu ti vai dal parrucchiere a farti i capelli? Ma perché ti fai bella? Tu devi essere bella così come sei per me, non per gli altri. Oppure: ma è mai possibile che non mi stiri mai la camicia? La trovo sempre qua, là, non la trovo mai fatta bene per come piace a me. Ma ti sembra normale che dopo 10 anni di matrimonio tu esci con le tue amiche e devi mangiare la pizza trascurando me? Poi rifletti un attimo e dici: ma anche tu sei un essere umano. Quante volte la mattina io potrei portarti il caffè a letto, svegliarti con un bacino e dirti buongiorno amore, e andando via dicendoti che sia una bella giornata per te come spero lo sia per me. Ci vediamo dopo, di piacendo. Non è meglio lasciare la donna con un bacio e una carezza, anziché con un epipeto e una sberla? Riflettete, amici maschi. Grazie. Allora, volevo dire un ultimissimo sponsor, che è l'azienda Cascino di Termini Imerese. Dal 1945, pensate, qualità senza età. Cascino, esposizione della tua casa in mostra. È un bello showroom, bello da vedere, bello da visitare, perché ha tantissimi articoli, dall'articolo per la casa ai tappeti, insomma all'arredo, c'è tutto quello che vi piace, anche il camino, il termocamino, c'è tutto. Quindi andate a visitarlo, perché lì avete la possibilità di scegliere quello che più vi aggrada per godervi la vostra il vostro nido d'amore, ecco, senza violenza, mi raccomando. Quindi dove dovete andare? Dovete andare a Termini Imerese. Troverete questo showroom straordinario con delle firme peraltro prestigiose. L'azienda mostra il Teuco, Scrigno, Gidea, Trend, Devon, Gazzotti ed altri, sono veramente nomi di altissimo bordo. Zucchetti, ecco, stiamo parlando di aziende di alto bordo di levatura internazionale. Visitate questo showroom. Cascina Esposizione è un concetto diverso di pavimento per una casa uguale a te, quindi abbiamo anche la ceramica per i pavimenti, ma non soltanto quello, per il bagno, insomma trovate tutto quello che necessita veramente per rendere bella la vostra casa e più belle le vostre giornate insieme a vostra moglie o alla vostra fidanzata che vi accingete a sposare da lì a poco. Allora, la Cascino è sulla zona industriale naturalmente di Termini Imerese, ma vi do l'indirizzo esatto: via Crisone 14, telefono 091 81 15 455. L'azienda Cascino, pensate, da diversi anni arreda le vostre case con gusto, ma soprattutto con tanto di firme che vi consente di avere a portata di mano la qualità assoluta. Sempre nel gruppo Cascino, ma con il franchising, se andate invece ad Ascari, a Tergo, dove c'è, passando sulla nazionale, davanti vi trovate lo spazio alimentare. A Tergo, lo spazio alimentare, c'è sempre Cascino come firma indelebile, insomma, di garanzia dei prodotti, ma c'è Expert, che è gestito dalla famiglia Cascino, dalla Cascino Group. Lì troverete veramente di tutto e di più, dai telefonini ai televisori, al plasma, così chiamato, non confondo, non sono fatti col sangue, no, non è il plasma, non è il sangue. Troverete anche lì accessori per il bagno, per la casa, dallo scaldino allo scaldabagno, ai frigoriferi, ai pozzi frigoriferi, insomma tutto, anche per quanto attiene il bricolage, oppure se volete fare come da autodidatta, dipingervi le vostre pareti o passare l'antimuffa, insomma c'è tutto quello che necessita veramente a 360 gradi, che necessita, non solo necessita per la vostra casa, ma vi fa risparmiare, perché se voi andate da Expert troverete tutto con gli sconti sotto Natale, soprattutto c'è un bellissimo regalo sotto l'albero. Quindi andate a trovare Expert sempre su firma Cascino, mi raccomando, lo trovate all'Ascari, proprio alle spalle dello spaccio alimentare, e la vostra vita chissà può anche cambiare. Mi raccomando, Expert e Cascino, sia a Termini Imerese con lo showroom, vi ho dato già l'indirizzo, sia all'Ascari in provincia di Palermo, entrambi. Per salutarci, il tempo è purtroppo tiranno, ecco, c'è Sharawi che deve assegnato il gol, vuole andarsene di fretta. Io ringrazio naturalmente le due ospiti straordinarie che ho avuto qui in trasmissione. Grazie per averci permesso di venire a parlare di questa iniziativa. Era una benemerita iniziativa. Vi dico che già il mio editore Angelo Arduino, come il mio direttore di testata, e io siamo sensibili a queste tematiche. Qualora dovesse avere bisogno nel futuro di pubblicare, di far conoscere a una fetta più vasta di pubblico quello che l'associazione, di concerto sia con l'amministrazione comunale che con altre onlus, portate avanti, noi siamo a vostra totale disposizione. Quindi ringrazio intanto la signora Flavia Bonfiglio, che ho riconosciuto poi moglie di mio carissimo amico e una ex collega di radio, perché insomma è questa, sono l'abbiamo... trascorsi troppi anni. Te la cavi bene, te la cavi bene. E poi la signora Nina Kalinova, che da diversi anni ormai vive in quelli di Finale di Pollina, ma si è integrata benissimo nel tessuto connettivo della nostra popolazione, quindi benvenuta. Spero che i nostri corregionali si comportino bene con lei, che i nostri uomini... Ne ha sposato uno! Ho sopravvissuto, allora va benissimo. Siamo un po' particolari noi uomini siciliani, questo è vero. Bisogna sapere scegliere. Non è soltanto quello, bisogna che voi donne abbiate la chiave. Io dico sempre, bisogna che la donna, per andare d'accordo con noi uomini siciliani, lasciamo stare il resto d'Italia che non ho il piacere di conoscerli come modus operandi o di agire, ma per quanto attiene me, per esempio, avendo un carattere un po' particolare, spigoloso, eccetera, un po' sgarbiano, se la mia donna trova la chiave giusta, inserisce nel center, scatta la molla e, come dire, penso che sia, ecco, la chiave di tutti i rapporti, nel senso che l'amicizia, lo stare insieme necessita di capirsi, di incontrarsi e qualche volta anche di tollerarsi, perché no? Quando non ci si tollera, uno chiude la porta, si fa una passeggiata, si fuma una sigaretta, lascia in pace la propria donna e poi quando rientra magari con un bacetto ci si chiede scusa, ci si abbraccia e la vita continua. Bene, grazie a queste stupende donne, per quello che siete, per quello che fate. Grazie al dottor Roberto Turrisi, grazie a Sharawi per la regia straordinaria di oggi. Grazie a tutti quanti voi per essere stati con noi, speriamo di non avervi annoiato con un argomento così interessante ed importante. Vi rinvito ancora una volta al rischio di diventare rocoroido, però il 25 dovete essere a Cefalù per questa fiaccolata, per questo incontro dibattito su temi veramente straordinari e di allarme che in questo momento sta attraversando in maniera trasversale la nostra Italia e la nostra isola, come la violenza sulle donne. Grazie ancora a tutti quanti voi, vi ricordo la differita domenica alle 9.30 di mattina, per chi vuole seguirci lo può fare su internet, e poi l'appuntamento per la diretta giovedì prossimo, stessa ora, stesso programma. Da parte di Filippo Glorioso, un grazie di cuore a tutti quanti voi, vi auguro buona giornata e buon weekend. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di